Smart City, la città intelligente. Buonasera da Chiara Albicocco. Questa sera a Smart City ci occupiamo dell'acqua, di questo bene comune, prezioso, perché è stata appena avviata una collaborazione di Federutility, che è la federazione delle imprese energetiche e idriche nel nostro paese, in collaborazione con Coop, che è uno dei gruppi più rappresentativi della grande distribuzione. Hanno avviato l'iniziativa che si chiama Sull'acqua il massimo della trasparenza. Che cosa si propone di fare questo progetto? Lo chiediamo a Mauro Dascenzi. Buonasera Dascenzi. Buonasera. Lei è vicepresidente di Federutility e quindi ci può raccontare che cos'è questa nuova iniziativa. È un'iniziativa in cui sono coinvolti molti dei nostri gestori. Federutility è l'associazione che riunisce, oltre che molte aziende che gestiscono la distribuzione del gas e la vendita del gas e della corrente elettrica, ha naturalmente quasi tutti praticamente i gestori dell'acqua in Italia, e molti di questi nostri gestori, in accordo con 500 punti vendita della Coop sul territorio, e quindi con un accordo nazionale, ne pubblicizzeranno le caratteristiche e terranno d'occhio alcune caratteristiche chimiche, organiche, per cui in ogni negozio Coop si saprà l'acqua del rubinetto che caratteristiche ha. Ecco, quindi lei giustamente diceva pubblicizzeranno, ma non l'acqua in bottiglia, come ci aspetteremo, ma bensì l'acqua del sindaco. Sì, anche se io ci tengo a dire che noi non intendiamo fare alcuna battaglia contro l'acqua in bottiglia. Vabbè, certo. Ma anche perché, devo dire, la nostra è un'esigenza di valorizzare ciò che facciamo noi, non di svalorizzare gli altri. Noi per esempio vendiamo ad ogni cittadino mediamente italiano 200 litri d'acqua al giorno. Mm-hmm. Beh, un cittadino quanta acqua può bere? Ma un paio di litri al giorno? Ecco. Stiamo parlando di qualche centesimo, quindi la nostra iniziativa non è tesa a conquistare quote di mercato, no? Perché è irrilevante da questo punto. Però ecco, vuole valorizzare il lavoro che fanno le nostre aziende, anche un po' il tessuto socio-economico dell'Italia. Noi ecco, abbiamo una buona rete dal punto di vista dell'acqua, della qualità dell'acqua, diffusa su tutto il territorio. Quindi l'acqua potabile dei nostri impianti è buona, per cui che cosa fate nello specifico in questa iniziativa? Che cosa noi troviamo al supermercato? Troveranno, tutti i cittadini potranno trovare al supermercato un cartello dove, perché siccome la corrente elettrica in Italia è tutto uguale, e così il gas, no? Invece l'acqua cambia rispetto al territorio in cui si trova. Quindi troveranno le caratteristiche della propria acqua. Quindi i parametri. I parametri. Mm. In particolare la concentrazione di ioni idrogeno, che è il pH, i cloruri, l'ammonio, nitrati e nitriti, residuo secco a 180 gradi, durezza, fluoruri, sodio. Ecco, rispetto a questo loro hanno la loro qualità dell'acqua. Ok, e però c'è anche un cartello che ce li spiega, che ci dice entro questi valori l'acqua è buonissima, certamente, sopra questi valori l'acqua non è più buona. Vicino ai valori effettivamente analizzati, noi avremo anche il range entro il quale questi locali, quindi si dimostrerà che naturalmente sono in linea rispetto a questi parametri. Questi parametri sono stati scelti dall'Istituto Superiore della Sanità. Il fatto di scegliere un supermercato è comodo, perché uno ci va praticamente tutti i giorni. Diversamente, dov'è che potremmo trovare invece queste indicazioni? Beh, moltissime delle nostre aziende nei propri siti web hanno naturalmente pubblicizzato, reso pubblico, direi più che pubblicizzato, reso pubblico questi parametri. Okay. Non solo, ma alcune di queste aziende addirittura le espongono nelle loro bollette. Ecco, però chi ad esempio non utilizza internet e non è molto pratico con la bolletta, li può trovare tranquillamente al supermercato. Da quando? Certamente, è dal 16 novembre. Okay. È già attivo, un servizio già attivo dal 16 novembre. Dascenzi, come mai avete deciso di fare questa iniziativa? Qual è il motore che vi muove? Beh, noi vogliamo far capire alla popolazione italiana, ai nostri clienti, agli utenti, cosa c'è dietro ogni goccia d'acqua. C'è un lavoro molto grande, un lavoro che a volte ha un'esperienza secolare, c'è un rispetto del territorio, c'è professionalità, ci sono lavoratori, la loro intelligenza, la loro buona volontà. Noi diamo per scontato che arrivi a casa, apriamo il rubinetto e arrivi l'acqua. Non è così facile, bisogna andarla a prendere, conservarla, purificarla, renderla potabile, poi raccoglierla ancora per restituirla pulita alla natura, quindi depurarla. Vede, è una filiera che è cultura, è scienza, è tecnologia, è un impegno molto grande. Ora, se lei pensa che mediamente in Italia noi abbiamo un prezzo di 1,3-1,4 euro per metro cubo, sa un metro cubo quant'è? Un metro cubo sono 1000 litri, cioè una quantità enorme, e ogni cittadino italiano consuma tantissimi di questi metri cubi. Ecco, ma pensate quanto lavoro c'è dietro a tutto questo. È giusto capire che bene prezioso è. Tra l'altro, noi a Smart City qualche puntata fa abbiamo raccontato delle casette dell'acqua. Ecco, non lo so, lei credo che le conosca molto bene, sarebbe un passo avanti avere anche queste indicazioni che lei ci ha raccontato, metterle anche in queste casette dell'acqua che stanno cominciando a popolare le nostre città, i nostri comuni. Beh, ormai sono centinaia e moltissime di queste espongono già i valori dell'acqua. Ecco. Ed è molto bello vedere quando a volte alla sera d'estate si formano addirittura la coda, dei capannelli. È vero. In fondo è anche un momento di socializzazione, no? Assolutamente. Dove si chiacchiera, forse è una socializzazione moderna. Ricordo di altri momenti forse più drammatici dove si doveva fare la coda per avere l'acqua in tante parti del nostro paese, no? È vero, è vero. E oggi è così ed è un momento molto, molto positivo. Sono centinaia ed è anche molto bello pensare che quella gente con la stessa bottiglia prende l'acqua un sacco di volte, eliminando quindi trasporti, scarti, rifiuti, rifiuti che purtroppo sono connessi a questo tipo di consumo. Va bene, grazie da Scienzi e buon lavoro. Grazie a lei altrettanto, arrivederci. Per questa sera è tutto, ci sentiamo domani, una buona serata.